Nella puntata precedente della nostra trasmissione vi abbiamo presentato la prima parte della lunga chiacchierata che abbiamo avuto sul tema della filastrocca e della conta con il professor Pompeo Vagliani, docente di letteratura per l'infanzia e direttore della Fondazione Tancredi Barolo e del Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, e la dottoressa Luciana Pasino, scrittrice e studiosa di letteratura dell'infanzia. Come spesso succede, il tempo non è stato sufficiente ad affrontare tutti gli argomenti a disposizione. Così, anche se non siamo riusciti a parlare più diffusamente delle conte, siamo riusciti a costruire però un piccolo compendio degli studi italiani a riguardo, e così facendo a delineare qual è stata la percezione del genere e la considerazione di cui ha goduto nel tempo. Queste ed altre le considerazioni negli spezzoni che vi presentiamo in questa ottava puntata di Bim Bum Baleggiù, così gioca il mondo, nella quale vi proponiamo la seconda parte della nostra intervista. Radio 110 presenta Bim Bum Baleggiù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum baleggiù, così gioca il mondo. Web Radio, Bim Bum Baleggiù, così gioca il mondo, ottava puntata. Come avete sentito dall'introduzione, parliamo ancora di filastrocche e di conte. In questa seconda parte dell'intervista entriamo un po' più nello specifico e nell'accademico. Parliamo degli studi italiani sul genere e delle opere più importanti sull'argomento. La dottoressa Pasino ci farà da guida lungo questa disamina. Nel primo spezzone recuperiamo il filo del discorso dalla puntata precedente, in cui abbiamo parlato della vitalità degli studi sulle filastrocche prima in Francia e poi in Gran Bretagna, introducendo i problemi del ritardo italiano, non solo in campo accademico, ma anche nella pubblicazione di opere antologiche che raccolgano esempi di filastrocche di tutta Italia. Ecco, a fronte di tutto questo, in Italia c'è un inizio di ricerca e di raccolta spostato un secolo dopo, quindi seconda metà dell'Ottocento, sì. E nell'ambito dell'archivio storico di Petré, delle tradizioni, sì, popolari, quindi Petré con i giochi siciliani. E in questo periodo, diciamo in questa prima fase, la ricerca è molto settoriale, quindi sì, una valle del Piemonte, una valle toscana, la Val d'Elsa, Pinerolo, la solita tendenza italiana, come, sì, il resto è successo anche nelle fiabe, cioè anche nella, sì, raccolta, sì, delle fiabe, forse un di lì, il giocattolo, le fiabe, certo, le filastrocche, certo, hanno un, certo, po', vivono un po' questa d'altra parte di... spesso sono riportate in dialetto, quindi sì, l'area è molto specifica, quindi diciamo che c'è questa prima fase. E un'altra cosa che posso, anche collegandomi al discorso che facevo all'inizio, cioè in Italia c'è un ritardo invece straordinario di proporre questi testi scritti all'infanzia. Ecco. Cioè che l'altra forma di enorme ritardo, no? Sia il ritardo critico, sì, la raccolta, la critica, sì, e ma anche la poi la messa a disposizione, certo, cioè nel senso che l'editoria, cioè no, proprio la perché alla fine alcuni di questi libri inglesi andavano in mano ai bambini, sì, cioè erano libri per bambini, sì, si vede anche letteratura per bambini, che sono figurati, cioè, illustrati, insomma, eccetera, eccetera, no? Mentre invece in Italia questo non avviene, per cui c'è proprio un decalage tra, per esempio, la poesia che veniva tra virgolette insegnata, no? Sì, a scuola, eccetera, e invece tutto questo patrimonio che non compariva. Bisogna aspettare la riforma Gentile perché ci siano inseriti, per esempio, nei sussidiari regionali di cultura regionale le filastrocche, cioè bisogna aspettare piccolissimo per quindi gli anni 20-30, okay. Sì, ma quello è il massimo, cioè nel senso che pensare che a scuola, per esempio, arrivasse un testo di cultura popolare è la novità solo proprio del primo anno, secondo, perché Lombardo Radice in particolare, sì, sono proprio i primi due anni della riforma Gentile. Quasi come se la scuola volesse strappare il bambino dalle sue... No, lì il problema era invece recuperare proprio il dialetto e la tradizione locale come invece strumento molto efficace anche per l'apprendimento dell'italiano, dalla vecchia didattica contrastiva, quindi tutto ASCO, certo, tutto il che, certo, c'è dietro, no? Però in effetti anche è curioso vedere, ci sono dei materiali scolastici che negli anni 20 propongono a scuola tutto questo patrimonio, e sono tra l'altro interessanti anche molto oggi, interessanti, perché molti, sì, di quei testi che ci sono in questi librini non si trovano a volte in alcune, perché quelli nascevano proprio come almanacchi di cultura regionale, sì, ma invece questo a scuola, come a me la lettura, pochissimo, bisogna aspettare anche lì i primi del Novecento, mentre invece la poesia per bambini, che è un paradosso, i bambini giocavano queste, sì, rime, sì, no? Sì. Però non se le ritrovavano mai nei quasi come film. Se gli adulti spiassero i bambini per sentire cosa si inventano, prendessero per sé più che altro gli adulti li ignoravano perché li consideravano un territorio poco proponibile sia alla scuola sia come libro di Amenali, mentre invece in altre culture non è stato così. Forse su questo facciamo un grossissimo errore, forse. Proseguiamo, sì, allora. In effetti, dicevi della ripresa anni 20, insomma, con la Riforma Gentile, periodo in cui esce quella splendida raccolta dello Scacciapensieri di Giusti, che poi viene ristampato, lo troviamo fino agli anni 50, e quindi questo aveva una destinazione infantile. Mentre poi negli anni 50 c'è un po' di rallentamento, perché perfino Pasolini, che fa una raccolta di poesia popolare, mette una sezione ridottissima che riguarda le filastrocche infantili e con scarso interesse con il materiale. Invece una bella ripresa c'è fra gli anni 60 e soprattutto 70-80, dove l'editoria ripropone questo materiale popolare per l'infanzia in tutti e due i sensi. C'è una parte di pubblicazioni destinate ai bambini e altre invece che sono destinate più, diciamo, ai genitori, ai nonni, comunque agli adulti, che hanno naturalmente anche una bella introduzione. Sì, sì. E, non so, un titolo che molti conoscono è La Ulia Ulè di Orengo, di Nico Orengo, sì. E questa era destinata ai bambini. Sì, questo esce comunque nelle collane Inaudi ragazzi. Sì, Inaudi, illustrato. Per ragazzi, sì, per ragazze. Diciamo, raccolte. Inaudi ragazzi. Inaudi ragazzi. Sì, sì. Dickory, dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Dickory, dickory dock. Bim bum bale giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio. In questa ottava puntata torniamo a parlare con il professor Vagliani e la dottoressa Pasino in una lunga intervista che abbiamo cominciato a presentarvi nella puntata precedente. Nello spezzone che segue parliamo dei primi lavori accademici sull'argomento, accennando un'etimologia della parola filastrocca più altri interessanti approfondimenti. Dunque, stavamo dicendo destinati a libri destinati ai bambini e libri destinati agli adulti. E qui un po' più settoriali, per esempio, non so, ci sono Conte Popolari della Gandini, che ha una bella introduzione. C'è un Ambarabà, mi pare che si titoli, anche un'altra raccolta della Gandini, Antologia di filastrocche popolari, con una bella introduzione. C'è un libro di Safiotti sulle ninna nanne, che ha interessante il sottotitolo, Condizione femminile, paure e gioco verbale, quindi analizza la ninna nanna dal punto di vista della madre, sì, non della funzione cullante per il bambino, ma come un testo di sfogo della donna. Molte ninna nanne sono abbastanza tragiche nei loro contenuti. Come figlio non ci ho mai notato. Un gioco di ruolo importante. Sì. E poi c'è questa bella raccolta sotto la cappa del cammino, e naturalmente parte con una Virgilio Savona. Di Savona, Mari e Straniero. Sì. Torinesissimo. Ah, ok. È una raccolta poderosa perché solo il settore filastrocche. È un libro molto spesso. Sì, sì, Oscar di quelli sì, sì, solo di filastrocche ce ne sono 300-400. Ah, di tutta Italia. Quindi stiamo cominciando un po' a c'è un po' la raccolta più organica. Abbiamo rincorso gli inglesi, un po' le fiabe di Calvino, insomma. Sì, esatto. Sì, un lavoro già più robusto, più organico, sì. Più organico. Viceversa, sul versante degli studi critici c'è un po' meno, o perlomeno è molto più settoriale, quindi non c'è il grosso studio monumentale come quelli inglesi. Settoriali, io direi qualcosa qua e là, tanto per farci un'idea di come sono state date delle risposte a quegli interrogativi che ci sono posti all'inizio. Sì, per esempio, cosa significa filastrocca? Lì è già un bel problema. Etimologicamente da cosa deriva? Qui c'è uno studio molto interessante di un glottologo, ovviamente, perché solo un glottologo può studiare una cosa del genere, che è Alinei, che la fa derivare dal latino filum come sequenza concatenata. Sì. Del resto noi diciamo molto anche tirare le file. E da historicus o anche da istrio. Quindi historicus è colui che racconta, che è versato nel racconto, ma l'istrio è il custode del sapere tradizionale ed è anche il musico, il danzatore, il pantomimo, il mago, quindi accosta di nuovo questo significato un po' misterioso della filastrocca, questo suo il potere della parola della filastrocca. Ma è un'etimologia confermata o è... Molto probabile, molto perché probabile. Il suo studio adesso io ho riassunto in un abstract, ma è molto ampio. È credibile, insomma, credibile, abbastanza coerente proprio. Sì, qui non siamo sul gioco di eco, questo sì, esatto. È, quindi siamo già incredibile sul... e c'è un bello studio glottologico dettagliato. Poi lei è un antropologo e allora sulle origini della filastrocca c'è qualcosa anche negli studi italiani. Quel segreto della filastrocca che ho citato prima di Silvia Goy ha un po' questa impostazione. Il libro è diviso in due parti, una parte è diciamo antologica, quindi presenta dei testi, e una parte invece analizza dei temi. Sì. E questi temi sono, non so, il cavallo, il bue, quindi animali, la vecchia, figure presenti nella filastrocca, e li connette a dei modelli mitico, religiosi, culturali. La Goy definisce le filastrocche dei canti calendariali. Calendariali perché sarebbero legati ai ritmi biologici, religiosi delle comunità. Trae conferma da alcune figure, per esempio la figura della vecchia, che è lo spirito della vegetazione, e poi da tutta quella serie di filastrocche, se lo guardiamo anche qui in antologia, sul carnevale, su alcune specifiche feste. Sì. Quindi questo direi è lo studio italiano più vicino a quelli inglesi di cui parlavamo prima. Poi ce n'è un altro italiano interessante e torinese peraltro, sì, qui sempre amor di patria, è questo studio di Maria Rosa Curello, che fra l'altro credo sia anche una direttrice didattica, è un titolo lunghissimo: Il potere della parola nella trasmissione delle tradizioni orali infantili. Sì, che però si capisce abbastanza bene. Si capisce abbastanza bene, sì. Con un sottotitolo importantissimo: sottotitolo. Ogni bambino è portatore di cultura, ecco, che non è... Ecco. Non è una cosa da ridere. Ribalta un po' il punto di vista. Si occupa della trasmissione, quindi sì, come avviene la trasmissione orale della filastrocca. È una ricerca condotta sul campo. Quattro scuole di Torino, registrazioni fatte con interlocutori bambini, ma anche adulti, anche i genitori, sì, anche i nonni. E su tutte queste testimonianze c'è poi un'interpretazione. Intanto è interessante il fatto che la ricerca sia stata fatta in città e non fuori, e questo sfata un po' l'idea che la tradizione popolare sia solo di area suburbana, solo di area, certo, contadina. Invece no, c'è in scuole anche centrali, certo, poi non so, adesso guardo la copertina, cerco di indovinare un po' il periodo, mi sembra un po' fine è recente 70. Recente, no, 90, più recente già, sì, 90, non so se è del 96 o però giù appunto di lì. Nel senso, un posto come Torino, che è luogo di immigrazione storico, insomma, infatti non ci puoi sono che trovare di tutto. Fondamentalmente, cioè, infatti nella schedatura viene indicato anche l'attività del padre, della madre, la provenienza geografica, perché ovviamente molte sono di regioni varie. Quindi insomma un'etnografia rigorosa è importante. Sì, sono interessanti anche le conclusioni, laddove naturalmente si conferma che la filastrocca è di tradizione arcaica, eccetera. Però la filastrocca fa parte di una attualità. Sì. È molto viva, si rinnova, e anche interessante il fatto che la trasmissione non sia unidirezionale, cioè non va dal genitore nonno al bambino, o comunque non solo, va anche dal bambino al genitore al, sì, nonno, o tra bambini. Came a big spider and sat down beside me. He twice had been Muffet, Miss Muffet away. 110 Web Radio, Bim Bum Bale Giù, 8ª puntata. Proseguiamo nella nostra chiacchierata con il professor Vagliani e la dottoressa Pasino. In questo terzo spezzone si parla delle funzioni della filastrocca e viene presentato un esempio dal vivo, per così dire, di quelli che vengono chiamati in inglese finger play, attraverso i quali si impara a conoscere i nomi delle dita della mano e a contare fino a 5. She hardly dared breathe, lest the spider should say she was frightened to sit on the tuffet with it. But how glad she was when it wished her good day. Ancora un altro studio citerei, perché è molto recente, è del 2010, di un educatore, si intitola Daula Daulania. Sì, siamo sempre nell'area. Siamo tra Liguria e Piemonte. Okay, sì, noi siamo sempre regionali. E, cantilene infantili dell'Alta Valle dell'Orba. Sì. Quindi questa è la zona. Parte da lì, naturalmente c'è una raccolta di testi, ma c'è anche un'attenzione al generi, quindi un'individuazione, sì, dei generi del folklore infantile, le cantilene, le ninanane, i canti di gioco e delle funzioni. In questo caso ne individua tre. che sono funzione di sostrato, così la definisce, funzione d'uso e funzione educativa. Sì. Allora, quello che noi interessa è che in fondo anche questo autore sottolinei che la funzione prevalente delle filastrocche non è quella a cui verrebbe da pensare, quella del divertissement, del gioco ricreativa, ma è una funzione educativa, quindi fin dalle sue origini. Sì. Funzione educativa primaria, diciamo, a cui si associa poi come funzione secondaria quella ludica o quella ricreativa. E quando si dice funzione educativa si pensa subito a un argomento, a un tema di apprendimento, che varia a seconda del tipo di filastrocca. Sì. Per cui, per esempio, la ninna nanna, che tema di apprendimento avrà? E allora torniamo all'etnomusicologia, perché Leidi, piuttosto che Roberto Goitre, sì, hanno osservato che nella ninna nanna ci sono gli elementi fondanti di primo apprendimento della musica, sì, per sì, il bambino, piuttosto che non poi anche della lingua. Sì, infatti tutti si costruiscono su scale semplici e abbastanza elementari. Sì, come nei cosiddetti finger play, cioè sì, nei giochi basati sulle cinque dita, no? Che si fanno proprio... Facciamone uno, dammi la mano. Dammi la mano, facciamo subito bambino, un gioco dai, del finger me ne basta uno. Allora, dovrò descriverlo per gli ascoltatori. Devi descriverlo, perché l'adulto con l'indice, il medio, cammina sulla mano, sul palmo della mano. Sì, questo me lo ricordo, assolutamente. E si dice mano mano piazza il gioco. Ah, beh, adesso la mia versione non si chiama così. Allora, mano mano piazza, ci passò una lepre pazza, questa è la lepre pazza. Sì, con le due dita. Con le due dita. È stata usata poi nella traduzione di Lepre Marzolina, sì. È stata utilizzata proprio questa filastrocca nelle in alcune traduzioni di Carlo. La lepre Marzolina recuperata da un patrimonio, ma ci hanno messo un po' a riconoscerla, che ritorna in qualche modo, messo un po' a ritrovare. Allora, detto che passa la lepre pazza, poi siccome l'intenzione era di far imparare i nomi delle dita, sì, in fase iniziale si può dire soltanto questo la vide, questo l'ammazzò, questa la pelò, questo la cucinò e questo piccolino tutta quanto puntando con il dito ciascun dito, oppure si dice proprio il pollice la vide, l'indice le sparò, il medio la spelò, l'anulare la cucinò e il mignolo piccolino tutta quanta se la mangiò. Sì. Ecco, quindi questa è una filastrocca che serve per imparare i nomi. Infatti, oppure ci sono quelle che riguardano il viso, però in realtà è anche tra virgolette numerica, perché io associo associo ad uno, anche se io non nomino i numeri, cioè in realtà associo uno a uno, no, delle certo, parole con degli oggetti che sono le dita, no? E quindi, poi anche ludica, perché poi, si fa anche poi solletico al palmo sì, della c'è mano, anche il insomma, movimento, cioè, c'è il movimento nei giochi elementari, e qui c'è in effetti tutto quello che è stato l'influenza di Froebel, quindi del discorso degli asili froebeliani, cioè quindi della scoperta anche di questo rapporto molto intimo di gioco tra il bambino e la madre, sì, no? Che quindi è nel momento in cui il bambino cresce. Quello è un approccio che ha dato molto a questo tipo di, appunto, situazioni. Sì. Goosey, goosey gander, where shall I wander? Upstairs and downstairs and in my lady chamber. Questa è l'ottava puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Con il prossimo spezzone termina la nostra intervista con il professor Vagliani e la dottoressa Pasino, che ha avuto luogo il 28 marzo nei nostri studi di Via Verdi 8. Con il tempo a disposizione agli sgoccioli, i nostri ospiti hanno concluso con una veloce rassegna delle tipologie di conta e con degli esempi per meglio illustrarne le differenze. Possiamo guardare rapidamente delle tipologie di conta. Guardiamo delle tipologie di conte, e poi torniamo con quelli iterativi e con quelli specifici di conte. Sì, certo. Una tipologia è la conta non sensica, ce lo siamo già detto, sì, prima, certo. Sono le più affascinanti anche forse per questo significato che magari abbiamo perso, perché c'è una distanza culturale fra noi e questi testi. Ambarabaci cicocò, auli uleta profita lusinghe tuli lam blam blum, sì, tile lam blam blum, oppure ce ne sono tante. Amstrang gram, un'altra. Che non conosco. Che non conosco, oppure enchete penchete pinchetine, sì, altra. Quindi diciamo vari filastrocche appartengono a questa categoria del non senso. Basate anche su simboli, su sillabe, su assonanze particolari, ecco. Poi ci sono le conte del riuso, ne accennavamo prima, sì. Qualunque tipo di filastrocca può essere utilizzata come conta purché si rispetti la scansione sillabica. Sì. Poi ci sono le conte numeriche vere e proprie, sì. Che sono quelle in cui entra il numero, sì. E che è la finalità. E ne abbiamo una grandissima. Ne abbiamo una gran quantità, 1, 2, 3, conta finché ce n'è, 4, 5, 6, sono 7, sono 8, questo fuori e questo sotto. Sì. Oppure quella che ricorda le tabelline, 7, 14, 21, 28, Pulcinella ha vinto al lotto un bel biscotto, 7, 14, 21, 28. Okay, e qui ce n'è una serie infinita. Si capisce appunto che in realtà si introducono delle abilità, sì, vere e proprie. Esattamente, si impara a contare. Esattamente. Poi c'è tutta una categoria di conte che potremmo chiamare quelle rinnovate, e anche una conta numerica. Uccellin che viene dal mare, quante penne puoi portare? Puoi, sì, portarne 33, 1, 2, 3. Questa stessa conta è stata ritrovata con uccellin che viene dal mare, quante bombe puoi portare? Che è un po' inquietante. Questa è degli anni postbellici. Sì. E in compenso, di recente hanno trovato uccellin che viene dal mare, quanti puffi puoi portare? Questa è una versione, diciamo, svediatica. Quindi è interessante vedere come si trasforma. Poi non so, potremmo dire che ci sono delle conte dialogate, quelle in cui intervengono anche gli altri bambini. Sì. E qui è di nuovo anche numerica. Macchinina rossa, dove vai? Cioè, questa allora si risponde a Roma, a Genova, sì, non so, quanti chilometri farai? E uno del giro risponde e poi da quel numero lì si inizia a contare. Questa fra l'altro è molto attuale perché c'è la macchinina, certo. Così come le sono debitrice di quella di Rita Pavone, che suona: Rita Pavone, nata in Giappone, morta a Milano, all'ultimo piano di via Polenta, al numero 30, telefono 1000, tu sei un imbecille. La chiusa. E questa è un'altra conta rinnovata. Sì, sì. Che tra l'altro secondo me introduce un'altra cosa, perché prima pensavo che arrivati a una certa età la conta serve anche esplorare il turpiloquio, nel senso, certo, che poi, certo, nel senso, certo, io mi ricordo, certo, la mia esperienza, ce ne sono tantissime, sostituire le parolacce con gli aspetti. Sì, ma c'è il rinoceronte sotto il ponte che fa delle cose abominabili, no? Quindi insomma. Va bene, mi sa che il tempo a nostra disposizione è scaduto, purtroppo. Abbiamo ancora una cosa velocissima da dire. Sì, no, velocissima, ci sono le filastrocche iterative, che sono quelle che partono invece dal numero e tornano a zero, cioè tipo quella dei 10 piccoli indiani, in discesa. Queste sono importanti perché è un'elasticità mentale diversa rispetto all'abilità numerica, cioè il conto decrescente. Certo. Cioè quindi da 10 piccoli indiani, 9, 8, 7, no? Ci sono versioni inglesi, di tutto il mondo. Esistono anche con le tabelline? Sì, ci sono anche i conti con le tabelline. Quelle se le facevo, forse la matematica mi tornava più simpatica. Attraverso le filastrocche si imparano molto precocemente i nomi dei numeri e effetti che sono importanti nella prima, anche riconoscimento delle quantità numeriche, e poi si impara molto bene il numero ordinare e il numero cardinale, cioè il numero ordinale come appunto conta, sì, il numero ordinale, il numero cardinale come corrispondenza per esempio di due gruppi che si dividono per fare dentro e fuori, certo, no? E quindi, sì, in realtà si introducono attraverso queste cose anche gli elementi base proprio della formazione del numero, certo, cioè del concetto elementare di numero, quindi l'ordine, la classe, quindi sono, è il nome del numero, cioè che dà origine comunque al riconoscimento, anche a memoria, diciamo, del nome del numero. Certo. Questi tre elementi sono apprendimento elementare della matematica. Quindi, insomma, la morale è non prendiamo sotto gamba queste filastrocche, no, anche proprio raccontano molto di quello che facciamo, di come l'abbiamo vissuto e di come lo abbiamo imparato soprattutto. E ringraziamo per avercelo spiegato, anche se in parte, chissà se poi ci potremmo mai tornare, professor Pompeo Vagliani, la dottoressa Luciana Pasino, e ricordiamo il libro Il primo giorno di scuola, di cui ho dimenticato le edizioni 6. Le edizioni 6, che è una raccolta di primi giorni di scuola dei docenti dall'Unità d'Italia Oggi. Bim bum bale giù. Le conte sono uno strumento fondamentale di primo apprendimento, non soltanto della matematica, ma anche delle parti del corpo e, più in generale, del mondo che ci circonda. Gli elementi della realtà, rielaborati a volte anche in chiave nonsense, vengono riproposti in composizioni metriche di difficile interpretazione, oggetto di interesse per gli studi etnomusicologici. Compaiono così, inaspettatamente, oggetti del passato ma anche della stretta attualità, tanto oggetti come il telefono quanto personaggi come per esempio Rita Pavone. Le filastrocche inoltre entrano in rapporto vivo con la lingua, con le sue componenti fondamentali come le sillabe, ma anche con le variazioni regionali. In questo modo, recitando le filastrocche nei giochi, in gruppo, in famiglia, il bambino entra in contatto con il mondo della conoscenza, impara a metterlo in ordine e anche a maneggiarlo in maniera personale e a volte sorprendentemente originale. E non dimentichiamo gli elementi più misteriosi della filastrocca, legati a un passato arcaico di cui non si scorgono mai le origini. Il cerchio magico, la divinazione, il caso, sono tutti elementi che si rapportano al gioco, a volte in modo cruciale, e lo collegano al modo in cui si forma il gruppo delle persone e si organizzano le gerarchie. Il mondo delle filastrocche, insomma, è prismatico e affascinante, molto più di quanto a volte purtroppo gli adulti siano disposti a riconoscere. Molto altro ci sarebbe da dire sull'argomento, ma il nostro tempo a disposizione è scaduto. Ringraziamo ancora il professor Pompeo Vagliani, direttore della Fondazione Tancredi Barolo e del Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, e la dottoressa Luciano Pasino, studiosa di letteratura per l'infanzia, per la loro gentile collaborazione. Ringraziamo anche Carlo e Sara alla parte tecnica e vi ricordiamo i contatti www.110.unito.it e cosigiocalmondo.blogspot.com per commenti e richieste. Io sono Francesco, l'appuntamento con Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo.